sfiorato un attimo la testa leggerissima al tempo che l'ossigeno toccasse i miei polmoni, passando per il naso, strisciando mezzo i denti, toccasse come un pugno le pareti della gola. E poi il suono al tonfo soggoppiato, muto, secco, così secco che il mio mento non si è fatto alcun rimbalzo. Il segno del cemento sulle guance, così il quadro si è schiarito ed ho capito che il momento era finito. Sono qui, le montagne mangeranno la campagna e i fiumi piangeranno fino ad alla cammicata. Il ghiaccio sulle scale e il sale su di quelle, il fango conficcato come smalto nelle unghie. E cambio solo sabbia, e cambio solo neve, il cambio che sto poco ma mi hanno dato meno. Il cambio solo sabbia, cambio solo neve, il cambio che sto poco e mi ha mangiato tutto bene. Mi hai lasciato il sangue, adesso vuoi prenderti anche quello? Bene, mi hai lasciato il sangue, adesso vieni a prenderlo. Mi hanno chiesto l'entusiasmo, all'istante ho detto sì. Mi hanno chiesto la pazienza, all'istante ho detto sì. Mi hanno chiesto la passione, il tempo è qualche soldo, ma il cambio mi hanno tolto pure il sangue dalle vene. Adesso come un dissidente stancamente manifesto il bisogno compulsivo ed eccessivo di un finale. Ma qualche anno fa, tutto un po' più semplice, bastavano le chiavi per sentirmi a casa solo qui. Il fuoco scalderà le mani fredde, i palazzi inghiottiranno ogni centimetro di strada. Il ghiaccio sulle scale, il sale su di quelle, il ghiaccio conficcato come asfalto nelle unghie. Il cambio sono sale, il cambio solo neve, il cambio che sto poco ma mi hanno dato meno. Il cambio solo sabbia, il cambio solo neve, il cambio che sto poco e mi ha mangiato tutto bene. Mi hai lasciato il fiato, adesso vuoi prenderti anche quello? Bene, mi hai lasciato il fiato, adesso vieni a prenderlo. Bene, mi hai lasciato il fiato, adesso vuoi prenderti anche quello? Bene, mi hai lasciato il fiato, adesso vieni a prenderlo.